So, now you're invited to come up with questions if you have. A questo punto siete invitati eventualmente a fare delle domande se ne avete. Yes, Roberto, let's hear. I was asking if it's advisable to read a book about the pratics, I mean the stage outside of the retreat, of course. I mean if it's something that is it's okay, I mean, or it's better not, otherwise one can make some ideas and You want to say that in Italian? Sorry. sì, stavo chiedendo se era consigliabile poter leggere diciamo dei libri sulla pratica, su come si svolge la pratica, di vari knowledge al di fuori del ritiro chiaramente, o se questo magari potrebbe invece creare dei concetti che poi possono rallentare sul il percorso. No, outside of the retreat, well, both ways are possible. Some meditators really don't want to know about these insight knowledges. They are very keen on just going by their practice and learning from their practice. And so they prefer not to read at all. It's maybe only much later on that they find some interest in this. And then there are others who want to who want to understand the conceptual framework, and then outside of a retreat or read up on this topic, and so both ways are possible. Quindi ci sono due possibilità, entrambe sono possibili. La prima riguarda quei meditanti che preferiscono non sapere nulla riguardo al progresso della pratica o degli insights, ma piuttosto basarsi sulla loro esperienza personale, andare avanti così e magari leggere solo quando sono in un stadio più maturo della pratica. Altri invece vogliono comprendere meglio qual è la struttura, diciamo, concettuale che c'è dietro alla pratica, e quindi leggono dei libri di Dhamma per aiutarli, e il Venerabile dice che tutti e due i casi vanno bene. Of course you have to keep in mind that reading up on these insight knowledges may create some concepts in your mind. And suddenly, then when you do your next retreat, you might bring those concepts into your practice, and this may or may not interfere. Allora potrebbe essere che leggendo di queste conoscenze dell'insight potrebbe creare dei concetti nella mente. Allora uno quando poi va al ritiro successivo, questi concetti che ha possono interferire con la pratica. No, by all means, when one is actually doing the practice, it's best to keep all these concepts away and just focus on what really is happening. Ma sicuramente quando uno è nella pratica conviene mettere da parte tutti questi concetti e focalizzare su quello che sta effettivamente accadendo. No. Okay, does this answer your question? Thank you. No. Next question, Goose, let's hear. When in my practice a thought comes up, I can sometimes name, oh, this is a thought rooted in greed, for example. I ask, is it also possible that a thought comes up and I see, hey, this thought is rooted in wisdom, although it is a thought? Allora, Gus chiede, nella sua pratica capita che sorgano dei pensieri e lui li etichetta, li riconosce come, per esempio, questo è un pensiero radicato nell'avidità, per esempio, nella Brahma. Però può capitare che lui riconosca un pensiero che è radicato nella saggezza. E quindi può capitare anche questo. So it is possible, and so See, when intuitive wisdom arises, then it will manifest in some maybe in some intuitive thoughts. Ah, this is so and so. This is here what I'm seeing. There seems to be a connection between one object and another object. Sì, quando si sviluppa questa saggezza intuitiva, allora è possibile che sorgano dei pensieri che permettono di vedere effettivamente quello che sta succedendo. Per esempio, che un oggetto è collegato con un altro. Oh, the fact that thoughts arise does not necessarily exclude wisdom. Il fatto che sorgano i pensieri non necessariamente esclude che ci sia la saggezza. You see, the mental states color our thinking. Perché gli stati mentali come se colorassero i nostri pensieri, come se tingessero i pensieri. So, when greed, for instance, is predominant, then we'll be thinking greedy thoughts. Quindi se è predominante la brama, allora noi penseremo, produrremo dei pensieri pieni di brama. Or when anger is predominant, then most likely angry thoughts will arise in the mind. Oppure se è predominante la rabbia, allora saranno nella mente saranno presenti pensieri carichi di rabbia. And certainly when wisdom arises in the mind, then those will be thoughts of understanding. E quindi se è predominante la saggezza, allora i pensieri saranno pensieri di comprensione. No. Yes? But in such a case, can I consider then such a thought rooted in wisdom as, for instance, it still is a concept, but it is a better and more exact concept as as a concept about this question I had before? Wait a minute, I didn't quite understand. The thought I relayed on, which I can consider, as this is a thought rooted in wisdom. Yes. Can I, in other words, mention that, aha, this means this is a better, another, a more exact concept as the thought you had about this question before? That wisdom can be an amelioration of concepts. So it's always a concept, but it's a better concept than others. Quindi Gusti dice, ma se capita. Continue. Quindi può sorgere, se sorge questo pensiero radicato nella saggezza, io posso prenderlo come un concetto, sì, però è sempre un concetto migliore dei concetti precedenti, che invece non erano radicati nella saggezza. Well, if it's still a concept, then you still need to be mindful of it. Quindi se è un concetto devi comunque esserne consapevole. And whether it's better or not, it doesn't matter at that point. A quel punto che sia migliore o meno di altri non ha importanza. No, let's say even if you've just gained some new intuitive insight knowledge, then you still want to be mindful of that. Quindi anche se uno ha appena acquisito una conoscenza dell'insight, vuole comunque esserne consapevole. And then you want to move on in your meditation practice. E poi occorre andare avanti nella propria pratica di meditazione. No, and there's a phase in the meditation practice later on where a lot of Dhamma reflections occur, and one understands points connected to the Dhamma in a very profound manner. Those thoughts seem like extremely valuable, yet from a meditation point of view, we still need to take those as the objects of observation. We still need to label them, observe them, know them, and let go of them. C'è una fase nella pratica, un particolare insight dove ci sono molte riflessioni del Dhamma, dove la pratica viene compresa molto chiaramente, però anche in quelle situazioni lì è necessario esserne molto consapevoli e poi lasciarli andare. No. Yeah? Okay, now, next question. Yes, Roberto. My question is more theoretical. Is mindfulness can be also not proper mindfulness in some way? Because where there is the, I think, the eight something, there is one has to have the proper. Or the Eightfold Noble Path. Yeah. And when they say to have the right mindfulness, then if there is the right mindfulness, there should be also the non-right mindfulness. Yeah, the wrong mindfulness, wrong indeed. Is possible. Yes, yes, and yes. What is it? And wait, I'm interested, sorry. So, chiedendo, negli otto, eight was the... Nel Nobile Ottuplice Sentiero. Nobile Ottuplice Sentiero, viene citata la giusta consapevolezza. E stavo chiedendo, ma se c'è la giusta c'è anche quella non giusta, e che cosa sarebbe questa non giusta consapevolezza? So the answer is the rightful mindfulness, or right mindfulness, is defined as the four establishments of mindfulness. So the establishment mindfulness on on the body, feelings, and so on. And the opposite is to be outside of those four establishments of mindfulness. Quindi la retta consapevolezza si riferisce a quella consapevolezza che è relativa ai quattro fondamenti della consapevolezza, appunto. E la non retta consapevolezza è quella che è al di fuori di questi quattro fondamenti. So, to give you an example, while you're on a Vipassana retreat, and you're supposed to do, let's say, walking meditation mindfully, etc., and then you start in an absent-minded manner, looking around, or maybe you start reading, and this and that. Some amount of mindfulness may still be there, but it's not directed towards in the right direction. Quindi, per esempio, in un ritiro di meditazione uno sta facendo una camminata, la meditazione camminata, e la mente si distrae, divaga di qua e di là, oppure uno comincia a leggere, potrebbe esserci una certa dose di consapevolezza, ma non è la retta consapevolezza. Yes, good. Very short and practical question. Will tonight be full moon, or has full moon already been? Oh. Do you know? Because I saw the moon last night and night before, I think. Is this full or has already been? I don't know. I think yesterday was full moon. I also think, yes. Ti chiedevo quando era la luna piena, se era stanotte o ieri notte. Mi pare che fosse ieri notte. Have a question about metta. Can we mix both kinds of meditation together, or should we do a metta meditation and another part of the day, the vipassana meditation? Or can I start with metta and go on with vipassana? Doris chiede la relazione tra la pratica di metta e di vipassana, cioè è possibile metterle insieme, cioè in una giornata fare per esempio una parte di metta e poi una parte di vipassana, oppure all'interno della stessa seduta cominciare con metta e poi proseguire con la vipassana? Usually, when we do Satipatthana meditation practice, we try not to mix. No, that's the the general guideline. However, the Venerable Bhāsisāda of Burma has taught his disciples to, or has proposed to do what is known as the five guardian meditations, the four guardian meditations, at the beginning of the very first sitting of the day. And so metta practice is part of that, but for a really short period of time, so just a minute or so. the metta, or those, yes, the four guardians? No, one. Just the metta. Yeah, just the metta, out of those four guardians, altogether 5 minutes. Oh, ok. Mm. E quindi normalmente nella pratica della Vipassana Satipattana non si sconsiglia di mescolare le due pratiche, però il venerabile Mahasi Sayadaw indicava ai suoi studenti di fare all'inizio della giornata, di cominciare la prima seduta con 5 minuti di meditazione sui quattro guardiani, e all'interno di queste meditazioni, di queste contemplazioni, c'era anche la metta, ma non molto lungo, un minuto praticamente su quattro. So, for the most part, try not to mix in the metta practice. The reason being that if you start or if a meditator mixes those two practices, then later on you will no longer know which experience belongs into, or which experience is connected to which form of meditation. Il motivo per cui si consiglia di non mescolare è che poi con l'andare del tempo ci si può trovare in una situazione in cui uno non sa rispetto a un'esperienza se appartenga a una pratica piuttosto che a un'altra. Now, there's one exception. Let's say you're experiencing some very difficult mental states. Let's say a lot of anger is coming up. Then you could enter, being mindful of it doesn't really help. Other methods also don't help. In this case, you could consider doing some metta practice. Però ci sono dei casi in cui uno ha esperienze di stati mentali molto difficili, per esempio molta rabbia, e non aiuta la consapevolezza o altri metodi, allora a questo punto può essere utile fare la pratica di metta. Yeah. Okay. And if I would it be helpful or useful to do it in this peace status of meditation? I mean, if there's just peace, can I start to make the metta meditation in between? When there's peace arising in the practice. Yeah. Ich kann nicht in die Stille nicht die metta Meditation machen, das weiß ich nicht. Oh. Oder ist das nicht günstig? Nee, ist nicht günstig. Nini, then she's asking whether she could or should do metta practice when much calmness arises in the mind, calmness, peace. Quindi Doris chiede se può fare la pratica di metta quando sorge molta calma, molta pace nella mente durante la pratica. So the answer to this is short and simple, better not, and just at that point focus on the piece itself and see whether there's some changes there. If not, if the piece doesn't change much, then go back to your to the observation of the rise and fall. E quindi ma il venerabile consiglia di non farlo quando si nota che c'è questa pace, prenderlo come oggetto, vedere se ci sono dei cambiamenti nello stato. Se non ci sono dei cambiamenti, allora consiglio di tornare all'oggetto fisico, all'addome. And so maybe in addition to what I said earlier on, of course during daily practice at home, the answer would be different. And so outside of a retreat, if you want, let's say you have 2 hours to spare for meditation practice, then you could devote 1 hour to metta practice and 1 hour to vipassana practice, or you can divide it up as you like. Ovviamente questo cambia rispetto alla pratica che si fa a casa, fuori dal ritiro. In quel caso è possibile fare un'ora di pratica di metta, un'ora di vipassana, come uno vuole. Yes? Okay. Anything else? Yes, Barbara, let's hear. In a small Satipatthana group in Switzerland, we discussed at least karma, and there comes a question up, how we can imagine where is the karma, and is there a resource or a store or something, or how we can imagine that. Oh. I didn't get the last part of your question. Oh, yeah, the karma. Yeah, they discussed in their study plan group in Switzerland. Where is it stored? Where is it stored? Is there any container for it? Quindi una discussione che è sorta nel loro gruppo di meditazione satipatthana in Svizzera riguardo al karma. Dov'è contenuto questo karma? Dov'è immagazzinato? C'è un contenitore? C'è un luogo in cui conscious as one moment, one moment of consciousness passes, then all the karmic potential will be passed on to the next moment of consciousness, and then from there to again the next moment of consciousness, etc. Quindi è un discorso un po' delicato, comunque un attimo di coscienza con il suo potenziale karmico, un attimo di coscienza trasmette il suo potenziale karmico all'attimo successivo di coscienza, il quale trasmetterà potenziale karmico a quello dopo ancora e via di seguito. And since the Buddha has not given any particular place for consciousness, he has not specified a seat or a base for it for the mind. So consciousness, it's hard, it's not tangible. E quindi il Buddha non ha indicato nessun luogo, nessuna sede per la coscienza, e quindi non è una cosa tangibile. It's something along the line when you play pool, no? And then you, what do you call these sticks? I forgot. I keep forgetting. I never know this. Pool sticks. No. There's a chew. That's the word for it. Yeah. I didn't even know. Quindi il paragone che sta facendo è quello del biliardo. Quindi ci sono le stecche del biliardo. Yeah. And so you have a ball here, and then with your cue, you give it a kinetic impulse, and so that first ball then starts moving, and it hits a second ball, and even though there's materially nothing being transmitted from one ball to the second, but still the second ball moves, then keeps or starts moving. Because they don't touch each other. They touch, but they touch, they hit each other, and it's the kinetic, the energy that gets transferred from one to the other. E quindi è come in un gioco di biliardo, appunto, quando uno con la stecca da biliardo colpisce una prima pallina che poi viene praticamente rimbalza, contro un'altra pallina, la seconda, e pare che sia proprio l'energia cinetica di una palla che viene trasmessa alla palla successiva, ed è questa energia cinetica che fa muovere la seconda palla. Let me see. Another modern example would be that of computers. So let's say you get a brand new computer, and so your computer is working, has a certain operating system installed, and then you start working on it, and you introduce all of the data relevant to you. And every time you add some data, and maybe also you deduct some data or remove some data, you're changing your computer. The data in your computer. Quindi per fare un esempio più moderno, immaginate di avere un nuovo computer e ha il suo sistema operativo, e allora uno comincia a metterci dentro le proprie informazioni, i propri dati, o a togliere i dati che non interessano. Ogni volta che si aggiunge qualcosa o si toglie qualcosa è come se si modificasse la struttura del computer, non è più lo stesso. You know, then you switch off your computer, you switch it on, you change again something, and so those data keep changing the data, and they keep the information gets passed on. Quindi uno spegne il computer, poi lo riaccende, di nuovo si aggiungono dei dati, si tolgono dei dati, e quindi è come se queste informazioni passassero da uno stato all'altro. Although you have your C drive and D drive and whatnot. Nel computer c'è il C, come si chiama? Il drive C, D, eccetera. Okay. So in that sense, so for the computer you have a place where all the information is stored. Sì, nel computer c'è un luogo dove tutte le informazioni sono effettivamente immagazzinate. I know, but in terms of Buddhism, Theravada Buddhist philosophy, there is, strictly speaking, no such base. Per quanto riguarda però il buddismo Theravada, non esiste un luogo fisico, una base, ecco, della coscienza e quindi del karma. However, having said that, this. There's the view of the commentators, namely, they speak of the Hadiyavatu, which is supposed to be the base of the mind. Però detto questo, però ci sono i commentari che parlano di una base della mente, che questa Hadiyavatu. And so that is supposed to be in in the chest, in the heart cavity. E questo pare che sia nella cavità del cuore. No. However, there's certainly different this what the Buddha said about the base of or the seat of the mind, and what the commentators say is not necessarily the same. Però tra quello che ha detto il Buddha e quello che dicono i commentari, non necessariamente sono la stessa cosa. And so, thus, this the whole question, where is karma stored, may still be difficult to answer. E quindi tutta questa questione rispetto a dove può essere immagazzinato il karma è molto difficile rispondere. And so, in your own meditation practice, have you found such a container or location? Nella tua pratica di meditazione hai trovato questo contenitore, questo luogo? Maybe similar, it's like a seed from an apple. There's all the information from a tree, mm-hmm. and from an apple again, but we can't see all the information in the small seeds. Because like you said before, one conditions the other. Yeah, right. The seed needs water and earth, but all the things, the conditions that they can grow. But we can't see all this information. Si porta un altro esempio, che è quello di un seme che contiene tutte le informazioni, perché quel seme si trasforma poi in un albero, eccetera eccetera. Non le possiamo vedere le informazioni, però ci sono a livello potenziale, e se ci sono le condizioni adatte, poi potranno svilupparsi. Usually no seat, or no base or no particular container for karma is being mentioned in the text. Non è indicato nessuna sede, nessun contenitore, nessuna base per il karma nei testi. No. Okay. Anything else? C'è ancora qualcosa? Then maybe there's some practical points for tomorrow morning. So after some discussions, the program that we've drawn up is tomorrow morning at 8:00. We'll meet here in the hall, and then there will be a closing talk from 8 to 9. and certain closing talk, and also a few things about certain daily practice, and then expressing our gratitude, and certain then if you have questions regarding to daily practice, etc., then please ask your questions. And certain then at 9, after that there will be walking session from 9 to 10, and for those who wish to have a last interview, you could come for an interview and certainly kindly sign up. Yes, Hannes has...